qualcuno? Sono le 10? Hola. Hola, chicos. Hola, hola. Hola, attenzione 10, c'è qualcuno? Avanti, buonasera, mi parlo di un buon pugno l'altro, buonasera. Buonasera, buonasera. Io subito l'abbattimento mi sembrava un vicino di casa invece. Vabbè. Antonio, non ho capito niente di quello che ha detto, non si è capito niente. Ciao Antonio. Ho detto che c'avevo abbattimento, stavo cercando quei canalini. Tutto lì. Ciao anche a... Antonio. Ehi, Antonio Bombola. Si è basato. Ma no, santo è. Ho detto imbarrato, ma non mi senti bene. Ha detto, ma cosa è imbarrato? Così. Non mi senti, vediamo, mi sono un po' che non ci sentiamo. Oh, Antonio, ti sento tipo quando c'è il microfono attaccato alla bocca. E non ho toccato niente, sto usando l'FM 500 m distante a meno 20-30 cm, forse 50. Buffano, ti sento diverso da soli. Aspetta, non ho toccato niente, ti attacco il microfono fa male, vediamo se ti... se migliora due minuti. Poi se sei troppo amplificato, poi sento televisione, è un bel di confusione. Ah, e adesso è migliorato. Forse non siamo troppo vicini, prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono sceso lì di amplificazione. Guarda un po'. Sì, dai, già va bene, dai. Anche se sento sempre la televisione vicino. Certo vicino. E nella stanza a fianco, figura. E chi è questo che sta chiamando? Ehi, mi ha detto la televisione che cosa? Che cosa? Avanti l'amico, cosa mi chiede? Mi ha detto la televisione? Ci sono un bel di tedeschi, in FM arrivano a fondo scala. Già lo so che... Lui... Già va bene. Adesso costruisco quel microfono lì. Quindi preparati, appena è pronto, il microfono a tavolo te lo regalo, lui. Cos'è? Cosa fai, Antonè? Il microfono aggiusto? Non aggiusto, no, lo costruisco io. Quel microfono a tavolo nero, te lo ricordi quello che ti ho fatto vedere in fotografia? Adesso te lo costruisco, hai capito? Così l'attacchi alla... al coso. Al capo l'attacco, vediamo come esce. Perché le fai connessione? Ehi, le faccio le connessioni. Prima me le vuoi ricordare perché non c'è più il foglio. A meno che non mandi il foglio delle connessioni. Per non sbagliare, tutto più tranquillo. Non ha giù voglio di queste cose, no? Non ti hanno fatto di cose, vabbè, te lo chiedo a Marino, là. C'è la Marino, il... come si chiama? La... ti voglio con le connessioni di tutto. C'è proprio il libretto, capito, su quello originale. Del 140. Gaffa! Antonè, come si chiama quella persona che hai nominato prima, senza fare nome, di cognome? La persona che hai nominato prima, fa il nome e il cognome, cazzo, mi svegliava. Ah, ho capito. Il nominativo ti può essere il nominativo? No, non mi sono spiegato. Tu hai detto un nome di battesimo, diciamo Francesco, Pietro, quello è 2 minuti fa. di cognome come si chiama, perché forse lo conosco, lui a me mi conosce, però cacchio, sto cercando di capire chi è. Ma che Marino? E cacchio, non hai detto tutto, non lo maledire più, no, non lo volevo dire la tocca. Ah, te lo dico io come si chiama. Ti mando un messaggio. Ah, vabbè, se mi mandi un messaggio, no, non volevo sapere, perché lui a me mi conosce, dice che mi conosce, sa cosa faccio e tutto, però sto cercando di capire chi sia. Lo zio di Giuseppe, quello che c'ha le bombolate dolce, di Mario, che è morto, hai compreso? No, non l'ho compreso. Qual è l'inizio del cognome? No, con la P. Non ce l'ho presente, scrivimelo e mandamelo, perché sto cercando di capire chi sia. Guarda, ma qui il cognome me lo ricordo, l'America di Maria. Mi ricordavo il relativo, America, però non mi ha chiesto il cognome. Va bene, non c'è problema, dai. No, perché lui sa dove abito, dove lavoro, eccetera. Detto, già ci conosciamo, io di Maria non ne conosco mai di niente, però sto cercando di capire chi è. Quanti anni può avere questo uomo? È tipico di me, figurati. E quando tu cantane vai? Io non lo so che cantane vai. 59. E lui è molto più piccolo di te? Sì, ne avrà fino penso una cinquantina, forse di meno. E invece io pensavo che ne aveva di più, ma ci credi? No, assolutamente. È giovane, è giovane. E cosa ha fatto per la sua pensione? Perché è portato a così che... Non sai che adesso si va in pensione ai 63 anni. Hanno cambiato tutto adesso. Con la minima. Ehi, guarda che ti ho mandato un messaggio. Ma sei sicuro tu? Certo che sono sicuro. Ma scusa, ma lui non lavora nell'ambito di coso del comune, di roba di pulizia e cose del genere? È lo zio e il fratello portavano le bombole, tutti e due. Sia Mario, Giuseppe, nipote e coso, come si chiama? Quello che è morto, l'altro fratello, cioè, cazzo, li conosci in tutta la notte. No, c'è quella fotografia, quello della fotografia. Ehi! Aspetta, guardo meglio, se lo conosco. Scappa! Se conosce, soprattutto il fratello era conosciutissimo a Sassari. Ma non c'ha 50 anni, ne ha più di 50 questo. Infatti mi pare che l'autore l'ha detto quasi 50 anni, secondo me ne ha di più. Sì, vabbè, il fratello più piccolo dei fratelli, però singola età ce l'ha, di più pure. Cioè, mi ha detto che mi pare di 2-3 anni in pensione. Infatti, non voglio criticare l'età, ma secondo me c'aveva una sessantina d'anni guardando la foto. Di vista già lo conosco comunque. Che non lo conosci? Sì, è già nonno Buro, ma cos'è? I nipotini insomma. Vabbè, altra giuma. È grandetto questa, non è che non è una creatura, no? Sì, io lo conosco per altri motivi, però lo conoscevo io, dove lavorava prima. Capa! E lui ha fatto qualche anno pure di bombole, cioè il padre e la madre c'erano un negozio, cioè è iniziato dal padre e la madre, aveva un negozio a Latinozzi di bombole. E sono fortimi, ci conoscete tutti a Sassari. Già da quel punto di vista non lo so. Vai Antonetto, qua te. Non c'è più nessuno, vediamo se qualcuno vuole entrare sul 10. Sono qua. Sono spostato due secondi, boia. Tra poco arriva l'apparecchio mio, cassera 1. Ma quello che c'è rotto? Eia, rimesso a posto, tutto a posto. Revisionato, nuovo come se fosse dalla fabbrica. Ma non l'hanno riparato, a Sassari o al continente? No, l'ha mandato in continente, l'ha mandato. Mi ha chiamato ieri, mi ha chiamato, dice, ricorda che quando appena si è stata si è fatto l'apparato, che è a posto, mi ha detto. È nuovo come se fosse dalla fabbrica, mi ha detto. Adesso dice che l'hanno provato su, però vuole provare anche lui, per sicurezza, nel caso magari c'è qualcosa che non va. E un po' una porta, mi ha detto. E chi è che li ripara, se si può dire, questa parata? Non lo scorso non glielo ho chiesto, la metà di questo giorno che si è messo al fatto dormire, e dice guarda che è tutto a posto, l'apparato è suo e dice appena sono a casa te lo porto, prima lo provo io che ti giuro e poi te lo porto, che comunque l'hanno provato, dice il test vale bene, quindi vabbè, glielo chiedo quando sarà stato a chi l'ha mandato, mi sembra che c'hai una persona giusta in modo che c'è qualche apparecchio così che lo mandi su e te lo sistema. È sempre bene avere qualche informazione, mai ti capita qualche vintage, apparecchio di quelli vecchi e cose così, se questo è pratico, se è bravo, sempre meglio avere qualcuno di scorta, perché a me a tempi furi mi aveva riparato tanti anni fa Bianconi, però Bianconi ormai è anziano, non lo sta più facendo, e su certi tipi di apparecchi era uno dei più bravi in assoluto. Cosa ti volevo dire? Aiutami, ti sto dicendo una cosa, quanti cosa avete tirato lì la M con l'apparecchio lì? Ma sinceramente non te lo so dire perché la temperatura gli ho fatta al colpo Marco, tanto tempo fa, quindi non ho mai toccato il vento, cioè non ho fatto, non ho cantato nemmeno né niente, l'ho lasciato così com'era, come l'ho preso l'ho lasciato così com'era, quindi non ho mai chiesto niente. Niente, comunque cercare di mettere un po' di calare le memorie eccetera eccetera, tu fai quello che devi fare, ho detto, perché sei, perché gli ho detto cioè stare con la situazione continua è un casino, gli ho detto ci pensava lui, beh tu certo è quando stavo usando quel periodo e tu dici guarda il 5M e certo è quello messo a 100 mi ha detto, e tu vabbè meglio usi. Dai, è pronto a mangiare, dai, ci risentiamo. Ciao ciao. Poi ho fatto qualche capo covato, ma già venendo a Ragoso, la fame. Ok, ciao, buona carica, buon tutto vato, ne. Ciao ciao. Ok, comunque adesso è a posto, almeno quello, sto contento. Adesso è proprio sfortunato, guarda. Una volta mi avevo dato un coso, un baracchino, cioè baracchino, è un beccamento in Corea, 7-5-7 giri. E lo stavo usando, mi fa, dice, allora ce l'ha anche lui, dice, provalo in AM, provalo in mandato, eccetera. E si vuole caputa di umidità di, come se fosse, come si posso dire, dentro una cantina. E io ho detto, guarda, questa parecchietta c'ha questo problema, non è che mi piglia molto. Dice, però usa, non ti preoccupare, piglia Marco, dice, vedrai che quell'apparecchio, ho detto, quest'anno mi ha detto, dice, vedrai che dura, a stanotte dice, non funziona più. È tutto un tratto, stavo ruando, trac, sei andato dentro a zero. Si era bloccato, come si chiama, la pentola, e con tutto l'apparecchio, non usciva più. Le paratete sono delicate quelle apparecchie, il lavoro molto ti è venuto. Che cosa? La riparazione molto è costata. Non lo so, non gli ho chiesto niente, la riparazione, quanto gli è costata. Ma 7-5-7 Gix ce l'ha ancora a fondo. L'avevamo portato da Adriano Lando e ho fatto sì, non l'ho mai riparato, ne ha due, ne dovrebbe averne due di quegli apparecchi. Quindi sono apparati vecchi, decrepiti, che non servono a niente, non lo conviene neanche a prendere, manco per 50 euro. Dimmi una cosa, quell'amico tuo, quello di via Civitavecchia, che faceva trasmettitori, era sul campo trasmettitori FM, quello di cos'era, di titolo di studio, ingegnere? Quello faceva trasmettitori TV, li parlava, eccetera, eccetera, ma è morto adesso, sai? No, sapevo, me lo stai dicendo tu, di cosa è morto? È morto di infarto, dentro casa, 3 giorni ci è rimasto, dentro casa, se ne sono accorti i vicini di casa. Adesso è tutto bloccato, tutto in sigillato, c'era poca roba, lì a Santa Maria è pieno di attrezzature, adesso non so cosa succederà, penso ce l'abbia tutto in mano in tribunale, non lo so, perché quella palazzina ce l'aveva tutto in mano in tribunale, erano in Brea, lui, il fratello, la cognata, eccetera, eccetera. Il sacerdote, quello che ce l'aveva con lui, è morto prima di lui, e 4 mesi prima è morto. Quindi figlio lui è morto 4 mesi dopo, anche se è tutto in mano la cognata e non so se c'è qualcun altro, no? E tutto sigillato. Ma non aveva figli, moglie, non aveva nessuno. Sembra per il Vella. Nulla, stava la moglie dei figli lui, nulla. Da solo riserva e basta, come cane. Ciao Clacon. Tanto bisogna che qualche giorno se sta a trovare il cugino, se so qualcosa, lo faccio vivere, se ha lasciato un testamento che lui possa aprire di lì e recuperare qualche attrezzatura. Tanto mica faccio vedere un coso, no? Faccio vedere quello che vogliono vedere, e ti danno quello che e se lo portano via, mica devo fare io a giudicare lì. A me dice quella che c'è, non me ne frega per niente. Vai qua. Per il Vella, non so, per un saluto sono entrato, mi ero di passaggio qua, sono entrato a accendere le radio un pochino, vi ho sentito, solo per un saluto, buona cena a tutti e alle prossime occasioni, sono 10 giorni che non accendevo le radio, ciao ciao, mi ascolti bene Robert? Ehi, a Vuglia, forte e chiaro. Ehi, sto andando con il barchino, quello piccolo, l'MB+5, ciao Antonio, buona serata a tutti, divertitevela, ciao ciao. Ehi, ciao, grazie, ci sentiamo alle prossime, state bene con te. Adesso, vabbè, vedo di andare al moto tutti i giorni, adesso le 5:30, 6 di sera, se incontro il cugino, glielo chiedo, si chiamano la roba e secondo com'è, ti ritiri quello che rimane, c'era a capo del 1058, del 1113, lampato, valvole di quelle per emissioni da 1,5 km, eccetera, eccetera. Quello che si può recuperare, si recupera e adesso tutti lampati, volevo stare a svegliare io a cercare roba per gli altri così. Chiamo a chi serve, mi serve questo, ti serve quell'altro, guarda che questo e quell'altro, vieni immediatamente per fare che macchina per il cortile. Poi adesso ci metteranno gli eredi, la cognata, quello che è, figlia, prende quella specie di coso che ci usa di subito, quel cassone grande, e tutti l'hanno fatto. Davide, cacchio, se ci penso, quello lì ci aveva la ditta, la Cosmo Elettronica, negli anni 80-90, era una ditta anche nelle riviste specializzate di radio private, monitor e cose, eccetera, eccetera. C'era la copertina, la seconda copertina c'era sempre la pubblicità sua, faceva tutte le fiere, cacchio, era una ditta bella grossa a Milano. Io ce l'ho andato nel laboratorio suo in via Civitavecchia perché lui era molto amico di il padre di un amico mio che era un ingegnere elettronico, ci avevamo un piccolo trasmettitore FM e lui ce l'aveva allineato, c'era una bella attrezzatura e c'era un bel roba, antenne, trasmettitori, di tutto e di più c'aveva dentro quel magazzino, non so cosa ci sia adesso. Penso che ci sia, non sono andato io. La maggior parte della roba è stata ceduta comunque a Santa Maria, c'è ancora, se ne avevi volato tutto, mi capisco. Quindi non ci sono più andato, neanche più andato a controllare se il nostro non devo pischiare con nessuno, posso dire che se dovesse essere e magari una cognata e cose del genere o il cugino, allora si può recuperare, se no io vado a vedere la roba, hai capito? A farla mi bando, non ho finito, a fare la cattura, non mi piace. Se non si chiama chiede cugino, se lo so, guarda, se ti ha fatto il testamento, se tu sei responsabile, mi dice per poca di questa roba, poi di tutto il resto chiama Cavoni, quello che ho mancato e fino a tutto. Tanto quella roba va finita nella Marcello, come è successo trovato uno che ha preso la roba di Melchioni, migliaia e migliaia di valvole, tutti mette le mani in testa, sono andato un amico, l'ha tirata lui, il resto diceranno tutto demolito, buttato, quello che c'è, ci sono migliaia di valvole, ma non una, migliaia, cacchio, per dire 5.000 valvole di tutti i generi, di nuovo sigillate, sono andato a vedere, a me non mi interessavano, però c'erano altre cose, un piccato di roba, quella roba lì va a finire la Marcello, te lo garantisco io. Come si chiamava di cognome, ricordali? Mario? Chigine. Mario Chigine, mi dispiace, era una persona, anche qua in radio ce l'avevamo sentiti un 6-7 anni fa, mi ricordo che a me, io stavo cercando un'antenna FM per 88-108, lui ce l'aveva, le collineari, mi ha detto dai la adattiamo, dimmi su che frequentava voi e te la faccio adattare io, ne avevo un bene al magazzino, mi ha detto ce l'ho a catastrate, c'ho anche le accoppiature, ho detto no, me ne serviva una, e poi non si è fatto niente perché l'ho comprata da un'altra parte. Se ne ha una quindicina, sono tutti attaccati loro, non c'è tocca l'altro. C'aveva quelle anche placate enorme, belle antenne sono. Peccato, quella roba lì andava al marcio, lo sono troppo sicuro. E poi c'aveva anche belle strumentazioni, aveva oscilloscopi, analizzatori, frequenzimetri, eccetera, generatori di segnali. Lui le riparava, oltre che costruirle, quelle radio lì. Sì, già lo so. Io dico solamente il garage chiuso con la... che roba mai vista. Invece Civita Vecchia chiusa con lucchetto grosso, quindi vuol dire che se avesse passato magari in tribunale, cosa del genere, quindi dovrà fare di nuovo la, come si dice, il conteggio di ciò che c'ha uno, ciò che c'ha l'altro e poi si vedrà la roba. Io sono il cugino, non l'ho più visto. Se ci passo a monte è stato quello, glielo chiedo se ha fatto testamento la roba, ce l'ha in mano lui, qualcosa lo chiama al cavallettino, però andrà sentato a Marcello, capito? Da quella roba vedrebbe il cassone fuori, che la verità non lo dica ancora, quindi vuol dire tutto qui, il cassone fuori con tutta la roba buttata dentro, le persone che si appare in tutto, vabbè, lì puoi chiedere, quando ci buttano, come è successo qui, la scarpa, per dire, quando ho buttato tutti i suoi telefonini, quello del genere, ci posso prendere poi, se lui dice, prenditelo, prenditi un bustone, ti allaggi, io non metto niente, non vedi trasmettitori, mi ricordo, finali di potenza, di tutto, di più pilota, un bel di roba, c'era, a parte le antenne, cavi, connettori, di tutto di più c'era, in via Civitavecchia, me lo ricordo perché c'era andato anche dopo qualche anno, c'era un bel di trasmettitori, quelli vanno a fine al mondo io come, che peccato, quelli di Radio Ulide, sai quelli di Radio Ulide, sono andati a prese e li hanno buttati nella mondezza, e i trasmettitori, il pilota e il finale da 400 watt della RVR, cose che costavano milioni di lire dell'epoca, rampati, li ho trovati in campagna di un amico mio, e poi dove li ha preso, e li hanno buttato in un cassone, sono via Grattere, ho buttato una cosa, allucinante, sono rimasto scioccato. Ma è così, la cosa deve fare, deve fare nulla, devo mettere tutto in digitale, in pratica, per attaccare a culo, le cose cambiano, hai capito, quindi è così. L'unica cosa che puoi recuperare sono le antenne, vedi, antenne di TV ci sono, tipo quelle rimangono tipo quelle che piacciono del cellulare, quelle rettangolari. Ma le antenne FM 88-108, se le accucci, le puoi usare in coso, in 144, in 2 metri? Ma lui c'ha anche le antenne per coso, cioè per quelle che stanno usando per i telefoni cellulari, quelle che pestano i tarici, ce le ha uguali lui, ne ha una quarantina di quelle antenne. Perché poi loro avevano i trasferimenti a microonde e lavoravano su frequenze molto alte, in gigahertz, per cui quel coso lì ci possono andare anche per altre cose, no? C'eravamo in Europa e io per dire ne avrò visto quello che ho visto lì chissà, per cui ho detto a Santa Maria Roma, dove la tiene a Santa Maria la Roma? Dove c'è il mercato all'ingrosso vecchio lì c'è la roba lì. Adesso lavora mio cugino, già glielo chiedo, lui c'ha il laboratorio di lì. Ma non ho capito, però non ho capito dove, in che punto. Apparentemente c'è uno che ha una strumentazione personale, che ha una band, e lui è neanche 40 metri più avanti. Capite? Ma stiamo dicendo che c'era prima il mercato del frutticolo, diceva che ha bruciato clienti dentro in quel cancellone grandi, in fondo c'è la vagizza, il falegname, quello che ripara le motozappe, di lì stai dicendo. Ehi, con le motozappe non c'è figlia, lo sai, che quello è alle cose. Tu convinci. C'è ancora le motozappe, tu stai dicendo un'altra persona, Mariani, che ti ha sentito, però c'è uno, non so, Garcia, ha preso il magazzino dove c'era lui e sta facendo lui le motozappe. Massimiliano, avanti Lola, avanti la bicchiola, mi sembra la voce di Massimiliano Bulldotte. Hola, hola, hola, calciofi, banale, 4 kg di vitrine. Tu hai alzato adesso un po', Antonio, è vero? Ho usato un coso, il BV 2001, a trafisto, con un paio di fiale solo. Anche la radio più chiara, 9.60 si arriva. Ci sono due finali, anzi due, dovrebbe essere in moto 5, 1 se 200, quindi 4 mi metto in grado. In una piccola, potenza sì. Però già funziona qui. Adesso la prossima settimana mi metto i finali nuovi e lo riparo. A tu! Eia! Tra me e Antonello, che differenza annunzi? Un bel po'. Se te l'hai bruciato rincuglione avrei fatto meglio. Già c'è un'ora, sì. Che è avanti, chi vuole entrare? Adesso è arrivato, ma è un segnale qua vicino, secondo me. 9.20 è arrivato da me. E quando ti arriva Antonello, Antu? Antonello arriva... No. 9.20 c'è più alto, sì. 9.25, tu sei oltre 9.30. E quando è attaccato lui quando arriva? Non quanto è te, ma quasi, tu sei più forte. Allora vi sono la Spagna, vai Antone. Eia, mi bavi lì, che mi faccio un regalo di più giorno. 340, 299 euro, ma 190, cioè, 299 euro. E mi faccio un regalo qua, in questo momento. Tanto lì su internet, nuovo nuovo. Lo sai chi è quello? No. Lo conosci bene bene, di Sassari, non facciamo i nomi, però lo conosci bene bene, qua ogni tanto entra. Vabbè, entra qui ogni tanto. Basta che non sia toccato, che è una parecchia davanti perché può sapere fare un pensierino. Leggi il nome, cioè tutto il nome intero, abbreviato quel nome lì e quella persona che entra spesso qua. È mio vicino di casa, ecco. No, che vicino di casa, la croce è sta. Ah, capito, capito. E chi è il tuo vicino di casa poi? Ormai non c'è più nessuno. Vabbè, sta vicino di Claudio, io. Non pensavo che fosse quello lì, quello che fa l'imitazione come Luca. L'ha detto tu il nome, lui, non lo diciamo mai lui. Ok, vediamo un po' se qualcuno vuole entrare sul 10, ancora un minuto e poi vado via. Avanti, sul 10 che vuole entrare sono Antonio e riprendi tu. Cappa, quello che stavi dicendo poco fa, io ogni tanto qui a Butria, invece Vita Vecchia, la vedo aperta, la vedo. Ci sono un po' di valvole, un po' di cose. Come la vedi aperta? La vedi aperta in questi giorni? La parata di un tipo di coria. Ogni tanto c'è la centrale della serranda a metà. Ma quando questo? Poi che ti va. È rimasto tutto come era. E allora vuol dire che stanno facendo l'inventario, se no deve andare a parte di tutto. Speriamo non vada la Mercedes quella roba. Oh, vabbè, se non la faccio tu già entra la mano di Danilo, cacchio. È qualcosa da recupera. No, tu pensi. E anche io sono un po' che non lo sento. Beh, signori, io devo lasciare, devo andare a mangiare. Ciao Antonio, ciao Antonello e eventuali amici qua su canale 10 in ascolto. Ciao ciao, divertitevi, io faccio un bel fame. Buon appetito, io mangiato. Sento a mezzino, a mezzo, ma proprio a mezzo di... Questa metà al massimo, a me l'ho fatto anche. Sento, mi chiedo, un attimo è così digerisco, perché è leggermente pesante, ci vedo di più. Scappa, quando è morto quest'uomo? Cioè, io qualche passata più di 20 giorni fa l'avevo visto aperto io lì a metà, ma c'erano a metà. Oh, yeah. Sono rientrato, io avessi fatto un giro di tapirolava, tanto. Ah, tapirolava, vai. Sì, ho già cercato Giampiero in alzata, nella tua fianco c'è uno del cane, hai capito? Quindi devo stare attento al cane, non sai che non ammazzava la macchina, e tu devo salire a lui. Cazzo, la mazza me ne è parata, anzi il braccio più che altro, la verità. Cioè, il muscolo del braccio ha dolore, uno mi. Lo so, Guglia. Ti stavo dicendo, quello lì, quel laboratorio lì io da poco, l'ho visto aperto, ma chi c'è lì? Ma lo so, io non sono più sceso, la verità. Da quando lui è morto, non ci sono più sceso, non so se è aperto, se è chiuso, boh. Magari c'è le cose, le nipote, il cugino. Chi ce lo vediamo? Li apriamo, cazzo, glielo svuotiamo noi. Comunque c'è Luca Togrosso, c'è. Roba che non ci ha messo mai lui in vita sua, lui credeva, lasciava tutto così com'era. Non c'era bisogno di Luca Togrosso e niente. Quindi, senz'altro che cose sono aperto, perché lì da Rossari a Santa Maria c'è di tutto di più, c'è. Quindi senz'altro che avevano aperto tutto, intanto mi hanno rubato qualcosa. Ci sono i pezzi della 600, della gomme, pezzi di macchina, ma di quelle macchine antiche lì, no? Che il resto della macchina non sai dov'è. Viene l'ante da corso. In quello stesso, hai capito? Tutta la macchina intera lì all'hotel, cioè quella lì c'è anche la 500, ma lo dico. Capo, ma di chi era quello? Un tanto basso era. Ma che stai dicendo tu? Seguenze? Sì, la Seguenze che ha messo la bomba, le macchine ha messo nel secondo sottopiano di Seguenze. C'è quella antica, la macchina antica, come si chiama, la balita, non è un nome di cosa, la verità. E lì mettono la parte, tutto il resto dei pezzi, tutto via Santa Maria. Ci sono gomme, motore, eccetera, eccetera, tutti i pezzi sono i chili. Capa, pure lui è morto d'infarto, E vabbè, ma se vedete almeno si è ripetito, è andata a trombare, in Brasile, hai capito? Adesso aveva fidanzata già sta bene, c'era una discoteca, la metà della discoteca tutta sua, sono tutti e tutta, e qui c'è anche le azioni dell'hotel, che aveva lasciato il marito, cioè il marito è fidanzato. Che bella figliora per Brunella, beh. È lo figlioro, non è cucino. Io non c'entra niente, no. Io sto parlando del tele, quello che devono ancora finire. Quello non è finito perché già sai che lui faceva le cose strane, se pigliava i soldi dello Stato e poi pigliava e lasciava a metà strada. Lei ha fatto un poco di casino, ha fatto. Già, lo so già. E come diceva il secondo piano affittato a questo qua, il sottopiano? Sì, c'è tutte e due le macchine, c'è la 500 bianca e questa è una macchina antica, c'è me. Capito? Tu il segreto non sai che era furbo, non pagava un cazzo. Mi ha chiamato a me per, insieme a lui, insieme a Mario, siamo andati a sì. Dice, quello che c'è, ancora ci ha chiamato il segreto, abbiamo dato il sistema di impianto contro la TV. Salvo, saliamo l'antenna. Quello è tutto a posto. Sì, passa domani, così ti pago. E passa dopo domani. E passa una settimana. Siamo andati lì quando non c'era la fidanzata, siamo entrati da Milano, ho preso e gli ho tagliato il capo, ha detto, ah, ma che sta che ti guardi il coglione, gli ho detto. Ah, dov'è? Allora, cazzo, era veloce a me, seguente era proprio, tu fallito a me, ma tu fallito a forte, la verità. Poi vabbè, c'è anche il fratello, mi sembra che lavorava assieme a lui, che c'era l'impresa, capito? Infatti l'hotel l'hanno costruito loro, lui e il fratello. Oh, figliolo! Non lo voglio, non è fatta, che non vera il suo periodo. Oh, lui figlio, non con questa seguente, seguente. Capito? Adesso quello sei lì, sono sicuro che lo pagheranno dall'altra, lo pagheranno e si fa un po' di tutto di soldi. Il figlio è anche la moglie. Ah, c'ha per una sua moglie, beh, mi chi da bionda, non l'ha mai vista tu. Le conosco tutti. È tutto un casino, Che vuole figliola con chissà burro. La fidanzata era bionda, alta, polacca era lì la fidanzata. Però ti sembrava un coso, un gatto sembrava, sempre sopra il tetto, con la scala, quello che si fosse salendo, come ti posso dire? Un piano di scale, hai sempre sopra il tetto, tranquilla. Hai già detto, questa è proprio allucinante, questa ragazza, l'ha avuto fino a, vabbè, quando l'ho conosciuta, almeno 25-30 anni li avrà avuto. Capa, però lui aveva già un'altra moglie pure. L'altra moglie che c'era precedentemente l'era mossa, ne ha avuto un'altra che c'ho una figlia che ha pigliato più Candelotti Edda e lasciamo stare là. Cazzo, ne ha dato, ne piglia uno nuovo con questa qua. Poi è tutto un casino, Ma te lo sto dicendo. Quello che c'è lì via Mandubia, se mi sembra che quello è da dividere, senz'altro sorrideranno lui, la moglie e il figlio, lo sistemeranno, a parte c'è da pagare i dipendenti, prima di tutto, la lui non c'è, però i dipendenti li ha pagati, quindi c'è ancora lì, l'avevano denunciato a lui. Vabbè, c'è stato il Covid adesso, eccetera, eccetera, quindi lo metto all'altra con l'hotel e si fanno ciò che rimane del bicchio rimangono a loro. Magari a posto dell'hotel faranno un po' l'hotel dei migranti, vedrai il Covid, lo prenderà il Covid in mano e ci mette tutti i migranti dentro, se vedrai la scena. Ma una cosa che è ancora da sistemare, per carità. Cosa c'è? Chiamare, Gesù, quanti si dite? In questo hotel, due scene, appunto. Dipendente che non si è montato. Cazzo. Dipendenti donne, mi quelle delle pulizie. Ehi, vedo una voce in bagno, montente, che andrà giovane. Sì, vabbè, però l'ho fatta che cosa? Parlo di Conforama, già lo sai. E poi ci hanno detto fuori. Ma portato la fine del checco. Abbiamo fatto la stessa identica cosa. Abbiamo usato un sacco di dipendenti. E poi è rimasto, l'unica cosa è rimasta, il deposito che era l'affittato cinese e basta. E la guida che c'è su Monteoro, non è rimasto nessuna attacco. Ma Corporama non è abbecio sempre. Prima di Corporama si chiama Mercatoria, te lo ricordo. Sì, cioè, vedo un sacco di ricchi, soprattutto se che te la conosco. Gurecia lo sapeva a me. Uno o due montate si ha fatto con i dipendenti. Già lo so, non dico a me. Ma che te è per questo. Quindi figurati tu. Lo sapevo perché quando lavoravo con l'usai, l'usai telefonava a Tedde, Tedde telefonava l'usai, l'usai telefonava a Tedde, quindi ogni sera andavano a montare. Poi è successo una volta invece che sono andato a montare in tre, lui, Scarpa e Tedde, in pratica l'usai è riuscito a trovare in Italia. L'hanno in pratica trattenuto lì in Russia e Scarpa fortunatamente per loro due è andata bene e è riuscito a tornare in Italia, se no era rimasto lì. Tutti e tre a Minorini mi sono andato, tutti e tre in Russia. Roba macchica. Sono sincari di gabbulo. Chi è? Avanti, chi vuole entrare? Avanti, chi vuole entrare? Ah, oh, hai rotto i coglioni. Cappa. Ti stavo dicendo. Oh. Che un pochetto magnaccini era nei salienti. Sì, non so, non mi dorme, sapevo tutto, sapevo di prima Pinto, dopo Pinto si scappa, dopo Pinto si scappa, in pratica Usai lavorava lì al, come si chiama, petrochimico, che aveva aperto un negozio lì dell'Italia e quindi tutti si trovavano all'ACR. Un giorno sono andati tutti quanti a come no? Il coglione che è rimasto lì in Russia è lui, perché gli hanno sequestrato tutto il passaporto, gli ha catturato tutto. È stato quasi un mese e mezzo, non sapevo come cosa dire alla moglie, cioè, mi dice no, mi hanno trattenuto qui in Russia perché sta facendo un convegno, l'ha detto, invece l'avevano sequestrato perché aveva tutti i documenti a casino, invece dati sono diventati tutti. Questo sto dicendo. Tutto sapevo, quando lavoravo lì da Usai, che sentivo tutti i colori, quello che si faceva con l'altro, poi quell'altro c'aveva un giro di coso, di donne che le portava a cosa, nelle ville di Giacentino, eccetera, tutto sapevo. Sì, ho detto, era diventato un togliaio, era diventato lì, in Russia. Ma ho detto, cazzo, perché hai detto delle... così gli ho detto, un giorno ho detto, tu hai detto, te hai detto, siete, hai detto, due bagasse vecchie, tu hai detto, che te hai detto, diventa froce, hai detto, lui qui, qualche giorno. Chissà niente la corsiera. Ma se ne intende, Pinto si chiama via arrivare. Adesso se ne intende. No, Pinto stava aperto prima di dottore elettronica, poi era solo, poi ha aperto Pinto e Scarpa. Aveva aperto in due, dopodiché Scarpa ha preso e ha aperto il negozio da solo di Apricetta. E poi Usai in pratica lavorava lì alla come sappiamo, è stato meglio per la sua per i cazzi suoi, in Italia. Quando sono stato io a lavorare, e ti parlo, mi sembra che lo valga qualche cosa, guadagnavano bene, perché allora c'era la lira, ci guadagnava bene, non come adesso, capito? I soldi ci facevano. E quindi, in pratica, cercando una persona, sono andato lì e ho detto, se lavoro qui non c'è problema, non mi ha mai assicurato quella volta, c'era Manuele, cioè mi ricordo, tutto è vivo, quindi figurati tu, lui era l'unico fisso che c'era, firmava allora, non c'era come si chiama, firmava i cartellini, cose del genere, dicevo lavorato questo mese, lavorato quest'altro, eccetera, eccetera, tipo lo dava alla, tipo più fa paga, capisci? A un certo punto, alla fine prendeva i soldi, l'unico fisso era lui. Io da lì poi ho iniziato, ho conosciuto un sacco di cibi, cioè già riconoscendo i cibi la metà, perché i cibi ce li avevo tutti in mano io in pratica tanti anni fa, però ho conosciuto tanti di quei clienti che a questo stato detto di questo mi stavo fuori, mi prendeva a io andare dove, io andiamo al bar, poi ti accompagno io a casa mia, facciamo mi pianto la cena, eccetera eccetera, ti pago io, mica devo pagare a lui, mi facevano, capito? Bei tempi erano, cavolo. Tu stai dicendo, quello lì ti ho detto, sicuramente chi so. Ma cosa era Gucci, chi so, tipo che ti sto dicendo? Un tipo Masso in Baffetti era, quello che ti stavo dicendo io poco fa. No, non era Masso in Baffetti, era senza Baffetti, è mezzo pelato, era, figurati, è un pochino più alto di me, era fatto anche me. Ma lui era più basso, la verità, che vedrà uno che era così, io ne conosco uno che è così, ma te lo conosci pure tu, se lo vedi in faccia. C'era il bar Viale Lanza, te lo ricordi, ma è sempre un video delle femmine, va via. Ciao, poi ce l'ha avuto anche lì in Piazza Le Segni un periodo, ne ha avuto un bel di bar. Non mi ricordo il nome, ma bagazzini come ti chiedo, ogni tanto li buttavo per bombolare i femmini che va via adesso. Mi non dire niente a mia moglie che si è venuto qua, che ha conosciuto moglie. Io andavo via a bere l'acqua di Belluri, che avevo a fianco, figurati. I cibi venivano a trovarmi, ciao Tomè, non sto facendo niente, non sto facendo niente, sto seduto adesso. Uno che vive per fare il pianto antenna, c'è il pianto antenna, un pianto, allora si faceva il tipo di, si rubavano quelle radio, le creme, le cose del genere, e dovevo fare la modifica, svuotare tutto dietro, fare tutti i tabletti uno per uno, poi fare tutti i collegamenti, figurati tu. Avevo fatto il laboratorio dentro io dentro, quasi all'ingresso, e mi avevo l'angolino a sinistra, quindi lui avevo conosciuto CD, gente che, addirittura anche i carabinieri, un giorno sono venuti, ci avevano comprato una magnetica e un barattino portatile, il barattino portatile ci hanno messo nel cassetto della macchina dove c'è la portiera, l'hanno tirato lì. Era per la magnetica, ci hanno messo dentro una peggiata per la magnetica, perché c'era quell'antenna in gomma. Quindi andavano e facevano il posto in blocco, capito? Papa, ho capito. Che tempi, cazzo, no? Guarda il blocco di roba. È di là che non girate. Sì, i soldi sì. Tu figurati che io mi campavo io, che ero in questo momento San Emanuele, più mi mettevo la benzina per la moto, mi toccavo l'assicurazione di uno scupa, quindi so lì mi giravo, a parte tutte le spine che mi prendevo erano quasi da una quindicina al giorno, le spine, la mattina e la sera, però facevo anche la colazione, un bel panino, la bello al bar, tutte le spine non vendeva perché altro. Quindi, poi facevamo in cantina antenna con Manuele, andavamo a Vero, la Gentiera, a Uso, eccetera, eccetera. E abbiamo fatto di cose, però i tempi quelli erano belli, perché tutti c'erano, non c'era nessun Covid, non c'era nessun problema, stava benissimo, potevi calcolare la barra, per dire con 50 euro si faceva la spesa, ragazzi, per 2 mesi e mezzo al supermercato, adesso con 50 euro, ma neanche la metà del caso non si vince. Che 50.000 lire all'ora valevano un bel però già lo so e quei tempi già cattive. Sì, comunque ho visto adesso ho contato che anche che lo si è alzato, quindi non è più come prima, è lo stesso. Si è levato anche lui di cose, prima con 50 euro ti riempivi il carrello, tanto per dire, adesso manco la metà te ne riempi, gira gira. Hai capito? 2 euro quello, 3 euro quell'altro, 5 euro quell'altro, eccetera, eccetera. E poi quello, poi quell'altro, arrivi quasi 40 euro a cazzo. Una volta 40 euro a cazzo, ci voleva a cazzo, pagavi il cazzo per dire 20-25 euro di una volta a carrozza e la porta a cazzo. Era bello così. Okay. Va bene, dai, Antonio, io ti devo lasciare, ci sentiamo. Ok. D'accordo, che la sentiamo domani al limite. Tanto stammi bene. Buona cena, buon tutto. E a domani. Cappa, sei uno di qualche sera vuoi passare dove frequento io, contro Vittorio Emanuele, mi farebbe piacere. Io ho detto quasi fine settimana ci vado. Dove c'è cosa, già ho capito. Mi hai fatto vedere il filmato di dove hai cantato quel suonato di cosa. In pratica è... il ciclo di Angelo Pino. Allora, attento. Allora, poi mi ricordo. 2 ore, Gizzo. Dove... il circolo di Cogio e via ma corso Vittorio Emanuele 108 da Costantino. Ma non è attaccato all'hotel quello che c'è l'hotel a fianco. Quello appena più giù dall'hotel. Quello era di Angelo Pino, quel circolo prima. Iniziato, l'ho fatto tutto io, sempre elettrico, eccetera, eccetera. In fondo poi c'è il bagno, anche se chiuso, il bagno c'è lì. Se tu apri quella porta, c'è il bagno e a norma c'è addirittura, agli handicappati, solo che c'è la pompa che non fa un tubo, poi di sotto c'è la cantina, addirittura tu facci quello che vuoi. Oddio, è cosa? Nino mi va, Nino. Pilo, lo stesso. Che ce l'hai, che l'ha preso anche del Pilo. Poi vabbè, c'è Marco. Marco in pratica è il cosa. Poi c'è un giorno c'è stato anche il vecchio marito della mamma di Angelo. Quello che è magro, adesso non mi ricordo come si chiama, mi conosco tutto. fatto tutto io, l'ho fatto col circo. Cioè, in pratica, l'ambulatore l'ha fatta a benzina, andiamo con la benzina piena. Però intanto l'elettrico e anche l'antenna l'ho fatto tutto io. Io ti saluto, ci sentiamo adesso, devo andare. Ciao ciao. Vabbè dai, sabato se non c'è niente da fare. Vengo, ma sabato apre anche la domenica. Prima apriva anche la domenica, prima. Anche la domenica. C'è ora c'è il karaoke. Ah, vabbè. Allora ci vengo sabato domenica. Lo sai che c'è un orario, purtroppo sono a piedi, quindi a un certo punto alle 9, 9 e mezzo devo tornare, perché alle 10 passano tutto il tramo, quindi 10 meno 4, la 25 poi e li porto a casa. Vabbè, già ci vediamo al limite sabato domenica, là, non c'è problema, quindi ci divertiamo un pochettino. Capo, dove? Tanto da 8 e mezza ora fa anche il karaoke. Ok, ci sentiamo. Ciao ciao. Eia, d'accordo. Come dico, il coso locale che c'era, il piccolo Celentano, il Scato. Questo è il circolo detto di Angelo. L'ho conosciuto subito. Scendi giù e sali da un'altra parte, ma è, lo sai, ma ci puoi fare sotto, una bella pizzeria ci puoi fare, di lusso, scendi giù lì, mangi, e c'è anche caldo, non c'è neanche freddo veramente, si sta bene. Non lo so, sta bene, sì, sta bene. Ok, io sono andato nella sala, in fondo, ma è boh, lo so. Ok, avete una chat, ci sentiamo. E io, ciao, alle prossime, ciao, ciao, ciao. Passo, passo, allora, attento, passo.